Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Dedichiamo il programma di questa sera a un unico argomento, ma è un argomento particolarmente importante. Parliamo del libro Donne in attesa e tra poco spiegheremo che cosa significa Donne in attesa, che va oltre il significato tradizionale secondo cui noi parliamo di donne in attesa. Ne parliamo con le due autrici, Alessandra Casarico, buonasera. Buonasera. E Paola Profeta, buonasera. Buonasera. Due professoresse di scienza delle finanze all'Università Bocconi, ma che sono conosciute anche, e potrei dire forse soprattutto, per i loro articoli e i loro studi sul Sole 24 Ore, che ormai da più di 3 anni regolarmente esaminano la situazione femminile in Italia. Situazione femminile che appunto è riassunta molto efficacemente in questo titolo del libro, Donne in attesa. Come vi dicevo, non parla solo della dolce attesa, cioè dell'aspettativa di un erede che di solito si svolge nell'arco dei 9 mesi, ma sono le donne in attesa anche di qualcos'altro. E allora cos'è questo qualcos'altro, Alessandra Casarico? Questo qualcos'altro ha in particolare a che fare con l'attesa delle donne sul mercato del lavoro, sulla possibilità delle donne di partecipare di più al mercato del lavoro, la possibilità delle donne di avere dei ruoli di responsabilità nelle imprese e di avere dei ruoli di responsabilità anche nell'ambito della politica. Quindi abbiamo usato un po' questo titolo forse evocativo per far pensare a donne in attesa nella maniera usuale, ma per poi così affrontare dei temi che non hanno a che fare, come sottolineava lei, con la maternità, quanto con l'attesa delle donne nella società, per così dire. Ecco, perché in Italia su questo fronte c'è qualche problema, lo dicono le statistiche, la partecipazione italiana delle donne al mondo del mondo del lavoro è tra le più basse d'Europa. Come mai c'è questa situazione? Paola Profeta. Sì, dunque, tanto ci sono tante cause. Sicuramente il tasso di occupazione femminile più basso in Europa, con la sola eccezione di Malta, pari al 47%, anche se c'è una forte differenza all'interno del paese tra il nord, che è un po' più avanti, e il sud, che è fermo al circa il 30%. Le cause sono tante, noi nel libro ne proponiamo alcune, in particolare sicuramente un ruolo fondamentale giocato dalla maternità, perché non è soltanto un problema di occupazione in generale, ma sono le mamme che sono quelle che soffrono di più questa condizione di disagi, di difficoltà nell'occupazione e poi anche soprattutto nella carriera, nel momento in cui c'è una crescita professionale. Però ne evidenziamo anche delle altre, cerchiamo un po' di sintetizzarle. C'è un problema culturale abbastanza profondo nel nostro paese, che parte da una divisione del lavoro all'interno della famiglia molto sbilanciata, per cui il lavoro di cura e il lavoro domestico è principalmente a carico delle donne, e questo crea tutta una serie anche di aspettative di riferimento, per cui saranno poi le donne a stare più a casa che non ad impegnarsi sul mercato del lavoro, e questo si autoalimenta un po', questo processo. C'è una certa ostilità, diciamo così, ancora da parte delle imprese, soprattutto nella difficoltà di gestire il tema della maternità, che spesso appunto viene visto come un ostacolo anche maggiore rispetto a quanto poi in realtà non rappresenta. Ecco, perché fermiamoci un attimo, però, mi scusi, a questo tema della maternità, perché la maternità è comune comunque a tutte le donne italiane, francesi, svedesi e di altri paesi. In Italia questo problema viene posto in primo piano, ma la Francia non solo ha una maggiore partecipazione femminile al mondo del lavoro, ma anche un maggiore tasso di natalità. Allora, cosa c'è di diverso, per esempio, tra la politica italiana, la cultura italiana, le tradizioni italiane rispetto a quelle francesi? Paola Profeta. Questo è un punto molto interessante, perché appunto l'idea è che la maternità e il lavoro femminile in realtà non sono alternative. Cioè, paesi dove si riescono a far lavorare di più le donne, si hanno più opportunità, in realtà sono anche quelli dove nascono più bambini. E noi siamo bloccati invece in un aspetto, in un punto negativo, sia per quanto riguarda la natalità sia per quanto riguarda le mamme. Ma sono proprio profondamente diverse le politiche che esistono, se noi pensiamo che da un punto di vista di politica familiare l'Italia spende meno della metà di quanto non spenda la Francia, e comunque meno in generale di tutti gli altri paesi europei. Quindi questo differenzia profondamente il nostro paese, cioè da noi è difficile, c'è una carenza di servizi e c'è una carenza di politiche familiari anche a livello fiscale che aiutino il lavoro delle donne e la fecondità contemporaneamente, e questo ci lascia bloccati nell'equilibrio negativo. Ecco, Alessandra Casarico ovviamente è d'accordo. Certo, sì, sono d'accordo, e credo che sia un dato anche da sottolineare questo del fatto che si possa conciliare maggiore occupazione con maggiore fecondità, perché non è un dato così noto, e tra l'altro vale anche all'interno del nostro paese. Al sud, dove le donne partecipano meno al mercato del lavoro, il tasso di fecondità è più basso di quanto non lo sia al nord, dove le donne partecipano di più. E questo sta a sottolineare che creare un contesto istituzionale favorevole aiuta a diciamo sia partecipare di più, sia avere più bambini, e allo stesso tempo un reddito in più nella famiglia, soprattutto anche in un periodo come questo di particolare crisi, aiuta la famiglia nel complesso e anche i bambini nel particolare a affrontare meglio i rischi, e quindi insomma è un valore in più per la famiglia, per il benessere della famiglia. E forse le donne sono attirate un po' meno al mondo del lavoro perché è più difficile per loro fare carriera. Beh, questo è un altro problema. In questo caso però non siamo soli, non è solo dell'Italia ma anche degli altri paesi europei dove le donne partecipano di più. Salire al vertice o a raggiungere posizioni di responsabilità è ancora, non dico un miraggio, forse questo è eccessivo, ma certamente presenta delle difficoltà molto più forti per le donne rispetto a quanto non accada per gli uomini. Sono stati recentemente pubblicati dei dati dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, in cui sostanzialmente non più del 20% delle posizioni di responsabilità all'interno delle imprese è coperto dalle donne, e dati simili si osservano in media anche quando guardiamo alla politica. Quindi le donne sicuramente fanno fatica a partecipare in Italia, fanno fatica a crescere nella loro professione, e queste difficoltà di crescita della professione ci accomunano a quanto accade anche negli altri paesi europei. Ecco, come possibile strategia di soluzione si è indicato negli anni passati il tema delle quote rosa. Voi nel vostro libro avete un capitolo in cui si spiegano 5 ragioni perché le quote rosa no, e una ragione perché le quote rosa sì, ma non chiamiamole quote rosa. Paola Profeta. Sì, dunque, la nostra idea è che le quote rosa possano avere un effetto, in particolare come strategia temporanea, un po' una strategia per rompere un equilibrio nel quale siamo fossilizzati. L'idea è che se noi pensiamo che la situazione attuale è un po' un monopolio maschile, allora probabilmente sarebbe molto utile avere un modo di uscire da una misura d'urto, per uscire da questo tipo di monopolio, e quindi innestare un processo che allarghi la platea dei partecipanti alle posizioni, quando si tratta di avere una promozione, quando si tratta di decidere le posizioni di vertice. E chiaramente quando si allarga la platea questo significa che si può andare ad un bacino più ampio, e quindi anche a selezionare dei talenti migliori. Quindi è un po' un discorso di tante più persone possono partecipare, in particolare le donne, siccome noi sappiamo che comunque stiamo parlando di donne che ormai, per quanto riguarda i risultati nell'istruzione, per quanto riguarda le competenze, non sono affatto indietro rispetto agli uomini, i dati appunto ci mostrano questo, allora si tratta di dare le stesse possibilità. E quindi è un po' una misura d'urto, probabilmente con effetti temporanei. Se noi pensiamo infatti anche agli altri paesi, l'introduzione di alcuni sistemi di quote è servito per sbloccare un equilibrio basato su un potere completamente maschile, per dare più opportunità alle donne. Quindi la nostra idea è proprio un po' di cercare di vedere l'aspetto positivo di questo meccanismo, come rompere quello che è un monopolio maschile per allargare anche ai talenti femminili, e permettere la possibilità di emergere anche alle donne che ne hanno le competenze. Quindi in un certo senso, e mi rivolgo ad Alessandra Casarico, potremmo dire la parità va bene, però la parità non a tutti i costi, ci potrebbero essere anche degli elementi di differenziazione. Le quote rosa, in fondo, pur se gestite in un certo modo, possono essere una differenziazione. Tenere conto delle differenze di genere può essere un elemento per raggiungere in maniera migliore la parità. Sì, questo è un po' quello che noi pensiamo, smettere di pensare alle quote rosa come una misura a favore totalmente delle donne, concedere loro degli spazi che non sono in grado di raggiungere, diciamo, autonomamente, ma pensare alle quote rosa come uno strumento, cioè non chiamiamola appunto quota rosa, chiamiamola democrazia paritaria, come diciamo nel testo, e pensiamo a questo come uno strumento temporaneo che consente di aprire più spazi a persone che hanno comunque talenti, che possono essere adeguatamente impiegati sia sul mercato del lavoro sia in ambito politico. Allora, dando un giudizio un po' e avviandoci verso la conclusione su quello che si è fatto e che si sta facendo in Italia in questa prospettiva, che giudizio possiamo dare? Come ci si è mossi negli ultimi anni, sia a livello di coscienza di questo problema, sia a livello di provvedimenti, di cose operative che sono state fatte per affrontare questo tema? Paola Profeta. Allora, a livello di coscienza sicuramente il dibattito è un po' aumentato, almeno negli ultimi anni, e se ne parla, e per esempio anche su questo tema delle quote ci sono delle proposte in discussione. A livello operativo bisogna dire che però purtroppo ancora non ci sono stati grandi passi avanti, le politiche sono abbastanza ferme, perché sia sul tema anche dei servizi, della spesa per i servizi, pensiamo agli asili nido, siamo molto lontani da quelli che erano gli obiettivi stabiliti dall'agenda di Lisbona, che erano per il 2010 è iniziato, e ancora noi siamo molto lontani da questi obiettivi. In termini di occupazione appunto siamo a questo 47%, l'obiettivo era il 60%. Purtroppo bisogna anche sottolineare come in realtà non ci stiamo muovendo troppo in questa direzione, insomma, perché la spesa per le famiglie resta ancora molto bassa, non si parla di un riequilibrio della spesa del welfare a favore della spesa per le famiglie, ma resta abbastanza concentrata sul capo famiglia. Gli interventi sembrano mirati più a accentuare e aumentare i legami intergenerazionali, quindi nonni che accudiscono bambini e cose di questo genere, piuttosto che invece ad offrire servizi. E noi nel libro discutiamo anche abbastanza su quelle che possono, certo, essere gli aspetti positivi o negativi di questo. Quindi tante prospettive. Io ringrazio, vorrei una battuta conclusiva anche da Alessandra Casarico, magari con una nota di ottimismo. Dove c'è un elemento positivo che possiamo vedere nell'attuale realtà italiana? Secondo me è aumentato il dibattito, questo è un aspetto positivo. Adesso bisogna fare qualche cosa per far scattare, diciamo, passare da dibattito ad azione. Speriamo che anche il nostro libro nel suo piccolo possa dare un contributo non solo all'ampliamento del dibattito, ma anche all'individuazione di qualche manovra possibile per muoverci dal nostro equilibrio. E anche noi abbiamo contribuito a questo dibattito, come contribuisce questo libro, ve lo ricordo, ringraziando Alessandra Casarico e Paola Profeta, docenti dell'Università Bocconi, collaboratrici del Sole 24 Ore. Hanno scritto il libro Donne in attesa, l'Italia delle disparità di genere, edito da Egea, 140 pagine per 16,50 euro. Grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito, grazie a Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in redazione. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito radio24.it. Grazie e buona serata a tutti.